I am. I am not that I am. I am and we are. We, you and me. I am because of you. We're here together. There's no me without you. I am. I said there's no me without you. We are. We. I am. I am. Because we are. We are. I'm only possible because we are. You and me. We are. I am. You made me possible. I am. Ooh, I am. I am. I am because we are. Ciao a tutti, io sono Lollo Cat, questa era Jean Monnet che ci ricorda che possiamo dire sono solo perché siamo, e questo è Club Chimera, un programma radio dedicato all'ascolto, alla condivisione, alla musica, ai suoni, il cui filo conduttore per quest'anno abbiamo provato a decidere che sia dedicato anche e soprattutto alla relazionalità, allo stare insieme. Quindi se l'anno scorso si era parlato molto di apertura di immaginari attraverso i suoni e attraverso l'ascolto, quest'anno riflettiamo su come questi immaginari ci aiutano a tendere le mani, a ritrovarci sempre più vicini. E a proposito, quest'oggi si parla di chimere, come al solito, e si parla di conchiglie. Insieme alla meravigliosa, fantastica Anita Borella, filosofa, amica, cantante, chi più ne ha più ne metta, partecipante della primissima puntata radio alla quale ho partecipato qui a Ex Alge, che era stata ospitata da un altro programma, Cabaret Voltaire di Laura Canella, in cui aveva invitato me e Anita e ci aveva fatto scoprire per la prima volta la magia del parlare in radio. Quindi oggi proviamo a rifarlo insieme ad Anita. E lo facciamo parlando appunto di relazione, di relazionalità. E ne parliamo anche e soprattutto attraverso la nostra relazione. Una relazione che nella condivisione di pensieri, letture, musiche, libri ci ha creato, penso di poter parlare per entrambe, ci ha donato tantissimo e ha creato negli ultimi 2-3 anni, neanche così tanto, ha creato quello che siamo adesso. Quindi passo la parola ad Anita e iniziamo. Ciao a tutti, io sono Anita Borella e sono amica di Lollo da qualche anno e oggi volevamo fare questa prima puntata di questo ciclo di quest'anno sulla relazionalità, parlando di chimere e parlando di xenofore, che scopriremo poi via via bene che cosa sono. E volevamo farlo appunto a partire da tutto un intreccio di letture condivise e, in particolare, cioè, potremmo iniziare leggendo un piccolo pezzo che ci ha unite quest'anno, ce lo siamo letti nello stesso periodo, che parla un po' di questo bagaglio condiviso che abbiamo creato. Forse inizierei da qui e poi... Certamente. È un articolo di Preciado, un filosofo contemporaneo, vivente, meraviglioso, che consiglio a tutti di gustarsi. È un articolo che è comparso su Internazionale e poi dopo è entrato dentro a Disforia Mundi, che è questo libro piuttosto chimeroso e piuttosto xenoforoso, perché è una grande accozzaglia di tante cose, ma appunto non abbiamo fretta di capire cosa significano questi aggettivi. E partiamo appunto da questo articolo che si chiama Un amore di biblioteca. Ogni relazione amorosa lascia dietro di sé una bibliografia, come una sorta di traccia o di eredità nella quale si segnalano i libri che ogni amante ha portato all'altro. Allo stesso modo si potrebbe dire che qualsiasi relazione possiede la sua Bibbia, il suo libro sacro, il libro attraverso il quale un amore o una delusione amorosa si raccontano. L'intensità e il grado di realizzazione di un amore possono essere misurati dall'impatto che la relazione amorosa ha avuto sulla nostra biblioteca personale. Io quando ho letto questo articolo quest'anno l'ho mandato subito a Lollo, perché è un articolo che parla troppo nello specifico di tante relazioni, ma nello specifico della nostra, nel senso che per esempio io faccio un dottorato in filosofia del linguaggio e questo dottorato, il progetto di questo dottorato l'ho scritto perché Lollo a un certo punto mi ha regalato questo libro di Presiado, quindi proprio dello stesso autore che abbiamo appena letto, che si chiama Sono un mostro che vi parla, e quel libro ha cambiato la traiettoria dei miei studi e io sono passata da studiare prima Hegel, poi Freud, Lacan, a studiare Presiado, appunto entrare nel mondo degli studi di genere. Ce ne sono tanti altri di libri che ci uniscono e che oggi attraverseremo. E ci sono anche tante canzoni, tante tracce. Quindi, parlando d'amore, iniziamo con una bellissima canzone d'amore di Nada, Ti stringerò, che è stata la canzone che ha finito la nostra festa di laurea, che è avvenuta insieme dopo che io e Anita per mesi e mesi abbiamo scritto le nostre tesi in parallelo. Alla parete, la notte a me mi viene sete. Fammi bere amore, fammi bere un po' di te. Si parla di biblioteche condivise, si parla di discoteche condivise, e attraverso questa condivisione cercheremo di parlare di come veniamo costruite attraverso le relazioni, attraverso le altre persone. Passiamo quindi a un altro estratto di un altro libro della nostra biblioteca condivisa, che tra l'altro è divertente perché è un libro che Anita ha letto durante la scrittura della tesi e che l'ha ricambiato l'ultimo capitolo, le ultime riflessioni, che io non ho letto in seguito sotto suggerimento di Anita, ma che avrebbe svoltato anche un intero paragrafo della mia tesi, che va a riportare le stesse idee. E in questo libro, che è Eros il dolce amaro di Anne Carson, l'autrice a una certa cita Virginia Woolf, Le onde, e in un momento in cui parla proprio di amore, di stare insieme, di relazionalità. E dice così: Com'è curioso quanto si cambi nell'unione, seppur a distanza, con un amico. Che cortesia ci rendono i nostri amici quando si ricordano di noi. Eppure, quanto è doloroso essere ricordati, essere mitigati, farsi adulterare, confondersi, diventare parte di un altro. Mentre si avvicina, qua si riferisce a un flusso di coscienza del protagonista, e quindi mentre si avvicina all'amico, non sono più me stesso, ma Nelville mischiato a qualcun altro. A chi? A Bernard? Sì, è Bernard. Ed è a Bernard che porrò la domanda: chi sono io? E allora io ad Anita pongo questa domanda: chi sono io? Una domandona, vabbè, sicuramente la domandona di tutte le filosofie, la domandona del femminismo, del transfemminismo, che ci fanno partire da sé, da noi. E questa domanda è anche un po' la domanda, insomma, per me nella mia vita, nella mia biografia, è anche un po' la domanda di ricerca del mio progetto di dottorato, nel senso che appunto io porto anche questa parte qua, ecco, della mia vita oggi, nel senso che io faccio appunto questo dottorato in filosofia del linguaggio dentro questo grande dottorato nazionale di studi di genere, e mi occupo in particolare appunto di Presiado, grazie a Lollo, e in particolare mi occupo del concetto di somateca. Il concetto di somateca è questo, diciamo, concetto di corpo che è stato coniato da Presiado sulla base di tutta una serie di pensieri che lui ha preso, digerito e rimpastato in questa creatura. La definizione, diciamo, sulla quale mi concentro io di somateca, che mi interessa di più, è una definizione che lui dà all'inizio degli anni 2000, perché poi ancora adesso ne continuo a parlare, che è appunto la somateca come archivio di scritture viventi. A me mi interessa questa idea del corpo come archivio, come quindi insieme aperto, come corpo che si smargina temporalmente via via che la sua vita va avanti, e come corpo di cui è difficile tracciare dei confini netti. E tra l'altro in questo libro Sono un mostro che vi parla, che vabbè è un libro che mi ha completamente detonato la vita, il pensiero e tutto, e appunto è un regalo tuo, e a un certo punto Presiado parla della somateca come un concetto erede del concetto di inconscio freudiano, che peraltro era quello di cui mi occupavo prima, che mi intrippava questa idea di questo concetto che non si sa che cos'è, che non si può sapere. E dice: così come Freud ha fondamentalmente detto, ah, tu pensi, e in quel tu c'è anche il tu della filosofia occidentale, tu pensi di sapere chi sei, pensi di essere questo io che è buono, che è cattivo, che è giusto, che è sbagliato, che oggi prende questa scelta, che domani ne prende un'altra, e invece si dà il caso che tu sia tutt'altro, che tu sia l'oceano in cui questa piccola boa chiamata io galleggia e talvolta anche va giù. E lui, e Presiado, in questa sua critica poi serratissima alla psicanalisi, in Sono un mostro che vi parla, dice: la somateca per me è un concetto erede del concetto di inconscio freudiano, perché e qui sta l'archivio che interessa a me. Così come tu pensi che il tuo corpo sia questo qua, no? Per esempio faccio riferimento al mio corpo, adesso chi è in radio non mi vede, però lo descrivo. Io potrei pensare che il mio corpo si limiti per esempio a questi capelli lunghi che oggi tengo legati in testa, a questi orecchini pesanti d'oro che mi porto dietro, e a tutte queste cose che mi socializzano per esempio in quanto donna cis. Ma in realtà quello che Presiado dice è che il mio corpo, la mia somateca, è molto di più. La mia somateca sta a questo corpo che ho appena descritto in maniera piuttosto così, insomma, superficiale, allo stesso modo in cui l'inconscio sta all'io. Quindi la mia somateca è composta di molto di più, perché dentro questo archivio che è il mio corpo si scrivono una quantità di cose che fanno sì che appunto questo, per esempio, essere socializzata donna cis sia soltanto, come dire, la punta dell'iceberg. Dietro ci sono un sacco di discorsi, un sacco di questioni. Beh, questo discorso sul corpo ci chiama a un'altra traccia intitolata Foreign Bodies, quindi corpi stranieri, quindi di nuovo questo non sapere riguardo ai nostri corpi, è di Matthew Herbert, che tra l'altro sarà in triennale a Milano giovedì prossimo. dentro all'album Bodily Functions. Questo album è stato interamente registrato con suoni prodotti da corpi nudi, quindi ossa che sbattono, dita che schioccano, suoni che puoi fare con la bocca, che poi sono stati remixati per produrre quello che sentite, aggiungendoci la voce dei testi. E quindi ancora una volta un modo totalmente strano e totalmente diverso di riutilizzare questo archivio corporeo e di trasformarlo in qualcosa di nuovo, di inconscio, in questa ombra oceanica che non sappiamo descrivere. Sesso genere è un sistema di bioscrittura. Scrive con sangue, sperma, latte, acqua, inchiostro, olio, coil, uranio, capitale, luce, elettricità e radiazione. Il corpo è un testo socialmente costruito, un archivio organico della storia dell'umanità in quanto storia della produzione e riproduzione sessuale. Alcuni suoi codici sono naturalizzati, altri restano ellittici, altri ancora vengono sistematicamente eliminati o cancellati. What? Questa è la frase incriminata, cioè il passaggio di Manifesto Controsessuale, che è questo, diciamo, primo grande testo importante di Preciado degli inizi anni 2000, che mi ha completamente fatto esplodere il cervello. E in particolare questo elenco: scrive con sangue, sperma, latte, acqua, inchiostro, olio, questo insieme di virgole e di elementi completamente eterogenei, come possono essere lo sperma e l'inchiostro, che vengono elencati come elementi, fattori di scrittura della nostra somateca, dei nostri corpi. Questo elenco mi ha completamente ossessionata, cioè io sono partita nel riformulare il mio progetto di ricerca da questo elenco qua. Mi ha completamente ossessionata fino al giorno in cui non ho incontrato un'ossessione più grande sul mio cammino. Ah. Che sono appunto le xenofore di cui parliamo oggi. Siamo xenofore. Siamo xenofore. E quindi what? Cosa sono queste xenofore? Allora, queste xenofore sono delle conchiglie. È una famiglia di conchiglie che si caratterizza per il fatto di, a parte il fatto di avere un bellissimo nome, ma a parte questo, si caratterizza... Cosa vuol dire il nome? Xenofore vuol dire che si portano dietro, fero dal greco, si portano dietro lo xenos, lo straniero, l'alterità. Quindi sono portatrici di alterità. E queste appunto conchiglie portatrici di straniero, di alterità, sono delle conchiglie che hanno la caratteristica di incorporare nel corso della loro esistenza, nel loro guscio, altri gusci, altri frammenti di gusci, altri frammenti di materiale eterogeneo che trovano sulla loro strada. Qua, piccola parentesi, per farvi capire un po' visualmente queste conchiglie e l'idea di Anita di queste conchiglie. Prima volta che ci siamo sentite in chiamata per organizzare questa puntata, mi ha condiviso il suo schermo, mi ha fatto diligentemente vedere il suo sfondo, che era questo sfondo completamente nero, con questo collage di conchiglie bianche, spiaccicate, sbrilluccicanti sullo sfondo, in cui letteralmente sono una conchiglia, come ve la immaginate, con degli spuntoni tutti intorno, che sono le altre conchiglie che questa conchiglia si è portata dietro in giro per il mondo. E la cosa meravigliosa è che poi, peraltro, appunto, Xenofore, innanzitutto al plurale, è interessante, è un nome che si riferisce a una pluralità pressoché infinita di casistiche, di singolarità irriproducibili, perché chiaramente il cammino di ogni xenofora poi è diverso e si compone di incontri diversi, e quindi questa cosa mi ha sempre affascinato. Insomma, parleremo di Xenofore in molti modi, però quello che appunto volevo portare qui a Club Chimera è proprio con le mie xenofore, con le mie ossessioni varie per Xenofore ed elenchi strani di Presiado, è che appunto per me la xenofora ha riempito un vuoto che io avevo, un vuoto anche concettuale e anche, come dire, di parola, rispetto all'esigenza che io sentivo di pensare il fatto che ogni cosa, ogni persona, ogni individualità, ogni oggetto è fatto anche delle sue relazioni, fondamentalmente si porta dietro le relazioni con i luoghi, si porta dietro le relazioni con le persone, le relazioni col linguaggio dentro il quale nasciamo, le relazioni rispetto a ciò che studia. Per esempio, io mi porto dietro tutti questi pezzi di Presiado come se fossero carne della mia carne. E, forse è un po' complicato, però, detto così. È un po' complicato, ma smette di esserlo nel momento in cui pensiamo alle nostre vite, alle amicizie, agli amori e quanto ci hanno regalato e quanto ci hanno reso delle persone diverse da quello che siamo. Mi viene in mente quest'altra frase di Italo Svevo, che adesso vado a trovare per leggerla giusta giusta. Eccola qua. Che dice: le cose hanno talvolta l'odore delle bestie che vi passarono su, specialmente se qualche cosa vi lasciarono, ma altrimenti le cose sono mute. È una frase che mi è stata donata al liceo da una persona molto importante e che mi ha subito fatto vedere come le cose che passano per strada possono significare nulla fino a che non c'è passata sopra una bestia, come potresti essere tu, e ha dato un odore a quella cosa. Questo libro di Anne Carson, se l'avessi visto in libreria prima di conoscerti, non avrebbe avuto nessun odore. Invece c'è passata sopra la bestia Anita, che me l'ha fatto odorare, ha fatto smettere che diventasse muta. Quindi anche in questa sinestesia usa Svevo tra l'odore, la voce, le bestie. E quindi niente, questa è la xenofora. Io adesso sono un po' Anne Carson, ma perché sono stato te che mi hai regalato Anne Carson. Sì, e poi appunto alla fine il cuore della xenofora è anche un po' lo stesso cuore della chimera, è l'innesto, è il principio relazionale per cui l'uno non si distingue dal due, non si distingue dal tre, non c'è questa distinzione rigida, o meglio c'è perché ci sono delle alterità, ma allo stesso tempo queste alterità non sono compatte, definite da dei confini rigidi che possono assomigliare per esempio ai confini nazionali che abbiamo in mente, ma sono confini permeabili, sono luoghi di proliferazione. Ed è bellissimo immaginare la chimera come un leone che andava per strada e si è portato una certa dietro una capra o un serpente solo perché l'ha incontrati, come queste conchiglie girovaganti. Beh, direi di passare al prossimo passo. Anche qua è un passo molto xenoforoso, perché è Derrida che parla di Heidegger, nel libro L'orecchio di Heidegger, e noi l'abbiamo xenoforato ancora di più perché abbiamo sostituito alla metafora guida del pensiero di Heidegger con cui si confronta Derrida la metafora guida del pensiero di Anita Borella. Quindi Heidegger, per parlare di quel qualcosa in più che non sappiamo dire dell'essere al mondo, usa il concetto del Dasein, dell'esserci. Derrida riflette su questo esserci e riflette su come questo esserci si relaziona all'amico, quindi all'altro. Noi togliamo Dasein, ci mettiamo xenofora e questo è il risultato. Benché la voce non sia in lei, la xenofora porta l'amico portandone la voce. Porta con sé l'amico, la sua voce o l'ascolto della voce dell'altro amico, come se questi tre ingredienti, l'ascolto, la voce, l'altro amico, formassero, nello spostamento silenzioso della stessa catena, in qualche modo una sola portata di questa portata di voce. Ma che cosa vuol dire portare? Portare non nel senso di portare in sé, comportare, ma portare con sé. Portare senza portare, portare l'altro, portare altro da sé nella differenza, però in una certa prossimità tra il portante e il portato. Un orecchio, che cosa può aiutarci a intendere in proposito? Allora, Derrida non è la prima volta che è comparso, già l'ho definito un filosofo floreale, di cui non si capisce nulla perché è troppo immaginifico, ma quando finisci di leggerlo qualcosa ti è rimasto in testa, un po' questa bellezza dei suoi petali nel suo fiore ti è rimasta. Però chiediamo ad Anita, ce lo racconti un po'? Beh, la prima cosa che devo dire su Derrida assolutamente è che non l'anno scorso, ma ormai 2 anni fa, mentre scrivevamo la tesi magistrale, io e Lollo gomito a gomito tutti i giorni, un giorno Lollo mi parla di De Tour de Babel, questo testo pazzesco di Derrida che parla di traduzione, che peraltro è un testo proprio di questi anni qua, di cui fa parte anche L'orecchio di Heidegger. Mentre scrive, nell'85 esce questo testo sulla traduzione, e proprio negli anni 80 Derrida sta in questo corpo a corpo con Heidegger parla di, a un certo punto, della mano di Heidegger, poi dell'orecchio di Heidegger in questo saggio. Ed è interessante anche per noi, proprio per me, te, io, Anita, tu, Lollo, parlare di orecchio, perché appunto l'anno scorso abbiamo fatto questa puntata sull'ascolto, insomma si vede che l'orecchio torna. Ma per tornare appunto a questo passo qua di Derrida nello specifico, quello che mi sembra interessante è che appunto Derrida questiona il fatto di portare su di sé l'alterità. E questo è esattamente il problema della xenofora, è il problema della chimera che si carica su di sé la capra, il serpente, ed è il problema di appunto nostro nel momento in cui abbiamo bisogno di nuovi modelli, di nuove parole, di nuove immagini per pensare una realtà che io credo già viviamo, quindi per liberarci di invece un modo di pensare che abbiamo incorporato ma che non corrisponde più alla nostra esperienza. Appunto la xenofora, la chimera, le pratiche anche che ci stiamo inventando, come per esempio anche fare una radio in cui si parla di filosofia ma anche si fa musica, e sono tutte cose molto chimerose, appunto tutte queste cose che ci stiamo inventando e questi modelli, come può essere per esempio anche quello delle xenofore, comportano una serie di domande. Perché appunto bisogna smuovere le categorie, di fatto bisogna smuovere i concetti attraverso i quali siamo abituati a pensarci, per esempio tutta la distinzione tra dentro e fuori. Cioè fondamentalmente la xenofora e la chimera lavorano su questo confine qua, che è un confine poi sempre più attuale appunto anche dal punto di vista politico, dal punto di vista mondiale, geografico, territoriale. Ma prima di arrivare alla politica, mi soffermerei un attimo sull'idea dell'ascolto, sull'idea che questo passo entra in un testo intitolato L'orecchio di Heidegger, in cui Derrida riflette sulla voce e quindi sull'ascolto, e quindi potremmo dire sulla relazionalità, sul creare questa xenofora attraverso l'ascoltarsi, che come oramai sappiamo bene è il grande tema di Club Chimera e delle nostre puntate, e che chiama una filastrocca tenerissima di Gianni Rodari, intitolata Un signore maturo con un orecchio acerbo, che adesso vi faccio ascoltare senza troppe parole. Un giorno ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche i bambini quando dico certe cose che ho un orecchio maturo, sembrano misteriose. Così disse il Signore con un orecchio al cervo quel giorno sul diretto. Beh, ci sono un sacco di cose da dire su questa canzone. Sicuramente è una canzone chimera totale, una canzone xenofora. Innanzitutto perché questo signore, insomma, maturo con l'orecchio acerbo, è comunque palesemente frutto di un innesto, è una di noi. È un signore cyborg a suo modo. E poi soprattutto a me una cosa che fa impazzire di questa canzone, che io leggo a te Lollo, è proprio il tuo uso, che poi io penso sia un uso che tu fai universalmente di questa canzone, ma in realtà non ho nessun motivo di crederlo, nel senso che io ti ho sentito una volta mettere questa canzone in un tuo set, però per me è esemplificativo di un modo tuo di fare arte, di fare musica, di fare chimera, di essere chimera, e che appunto ha dato vita anche a questa cosa che oggi ci ospita, ci accoglie, che è Club Chimera. Ed è il fatto che appunto c'è, cioè, nel tuo modo di fare musica, un set che può magari stare prendendo una direzione super techno o super danzereccia, a un certo punto tu trovi il modo per far slittare dentro in maniera assolutamente proprio così, uno scivolo, il signore maturo con l'orecchio acerbo, i bambini che cantano in coro. Cioè io lo trovo una cosa meravigliosa. Grazie. Bene. A proposito di coro, a proposito di coro, se ci siamo raccontate come cambia la soggettività, la persona, quando la pensiamo non come un individuo slegato, slegata da tutto il resto, ma quando la pensiamo come una xenofora, che quindi si porta con sé tutto il resto. La mia domanda è, a partire da questo coro di bambozzi che ci cantano del signore maturo con l'orecchio acerbo, come questo concetto di xenofora ci aiuta a ripensare la collettività? Nella puntata precedente la domanda che mi ero posto era: come facciamo a stare insieme? Come impariamo giorno per giorno a stare insieme? E quindi adesso ti chiedo, pensando xenoforicamente, come facciamo? Beh, secondo me la cosa bella, cioè, delle xenofore, la cosa che almeno mi ha completamente fulminata, è che in qualche maniera è un concetto, un'idea, un'immagine e una parola che in qualche maniera eliminano la distinzione tra, come dire, l'individuale e il politico. Cioè non c'è più il problema, come dire, di filosofia del soggetto e il problema di filosofia politica. Cioè sono lo stesso problema, è lo stesso fatto. Cioè questa xenofora, un po' come l'idea che sta dietro a Club Chimera, ci dice che appunto siamo esseri relazionali e quindi i problemi politici sono problemi anche del soggetto e viceversa. E vabbè, questa cosa qua è una cosa che insomma il femminismo, il transfemminismo hanno tematizzato in tutti i modi, nel senso che per esempio, vabbè, già a partire da Butler, da Gender Trouble, che è comunque testo fondativo di tutti gli studi queer in cui oggi ci dilettiamo, cioè l'idea proprio di che sta dietro a Gender Trouble è: ma siamo sicuri che il soggetto del femminismo è la donna? Cioè, nel senso, non è che abbiamo bisogno di un soggetto politico chimeroso, xenofora? Cioè, lei ovviamente non dice queste parole, le dico io, però... Ma sono sicuro che concorderebbe. Però l'idea è proprio quella, l'idea è quella di pensare la politica non sulla base dell'omogeneità, ma sulla base dell'eterogeneità. E quindi avere creare un'idea di soggettività politica a più teste, chimerosa, un cane a più teste, un soggetto a più animali. E da questo punto di vista, secondo me, per quanto Galindo non sarebbe d'accordo, Galindo è la persona di cui sto per parlare. Lollo, non mi sgridare. Galindo non sarebbe d'accordo nel dire che, cioè nel fatto che io direi di lei che è l'erede di Butler, perché Galindo è molto rivoluzionaria, molto antiaccademica. Però Maria Galindo, questa femminista boliviana incredibile, meravigliosa, parla. Che ha una radio, tra le altre cose. Sì, dobbiamo dirlo, una radio pazzesca che va in onda tutti i giorni, mi sembra tutto il giorno, comunque tantissime ore al giorno, e si chiama Radio Deseo, ascoltatela perché è pazzesca, e spesso c'è lei che parla, che è una figura incredibile. E Galindo, secondo me, a suo malgrado, erede di Butler, parla dentro a questo suo Femminismo Bastardo, che è questo libro che è stato tradotto anche in italiano in questi ultimi anni, che è, diciamo, una miscellanea di testi vari che lei ha scritto, tra l'altro con la prefazione di Presiado, quindi si torna sempre al nostro caro. In Femminismo Bastardo Galindo parla per esempio della necessità pensare e creare delle alleanze insolite, e quello che lei propone secondo me è totalmente la xenofora a livello politico. Vorrei magari leggervi questo passo di Femminismo Bastardo, che secondo me spiega perfettamente quello che stavo cercando di dire. Dice Galindo: vorrei invitarvi a un'altra lettura GLBT, che è l'acronimo LGBTQIA+, che si usa in Bolivia, questo è l'ordine delle lettere. Vorrei invitarvi a un'altra lettura GLBT, mescolando tra loro LPD, lesbiche, puttane e disoccupate, oppure LGV, lavoratori, gay e vecchi, oppure LLV, lesbiche, lunatiche e vecchie, o TTI, tu e io, oppure TNT, tu, noi e tu. Non c'è niente da dire se non far partire musica. Un'altra musica della nostra discoteca condivisa, di cui Anima ha parlato, perché viene citata da Maria Galindo nel suo libro Milonga Queer. Me pegaste un'etichetta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Bellissima questa Milonga queer, la amo. Peraltro ha un testo super maxi Galindo, super maxi Femminismo Bastardo, perché appunto Galindo insiste tanto su questa cosa delle etichette, che sono un feticcio neoliberale che si divora il nostro movimento rivoluzionario, e lei proprio spinge tanto nel senso della xenofora, nel senso della chimera, nel senso del immaginiamoci un soggetto politico che sia completamente esploso rispetto a appunto quei soggetti feticcio che poi vanno tanto bene al neoliberismo della donna, dell'uomo cis gay, della donna trans, tutte queste soggettività separate tra di loro. E c'è un passo che secondo me è incredibile, perché poi Maria Galindo riesce a essere, cioè, fulminante, devastante, chiarissima, rivoluzionaria in un secondo, mentre noi magari ci mettiamo 7 ore a dire qualcosa di che vada al sodo. C'è questo passo di Maria Galindo che dice: vorrei slegarmi dalla parola femminismo perché mi stanca così tanta semplificazione. Viene voglia di dichiararsi come una nuova specie di ribellione. Viene voglia di debiologizzare la parola donne e abbracciarsi con le persone trans in un abbraccio che confonde un corpo con un altro. Viene voglia di smembrare i modelli del concetto di donna e costruire un nuovo Frankenstein. Mettere nello stesso corpo la vulva della puttana, il collo dell'operaia, gli occhi della pazza, le gambe della vecchia, la pancia della partoriente, i piedi della migrante, le braccia della trans, le orecchie e i capelli della India, la saliva dell'autistica, e capire che siamo una metafora politica di India, sputtane e lesbiche in sorellanza e ribellione. Un corpo metaforico, unito dalle sue ribellioni e non dall'essenzialismo identitario. Un corpo metaforico, unito dalle utopie. Cioè, ma mi fa venire i brividi, non so voi, ma... Vorrei fermarmi qua perché non so cos'altro aggiungere, ma una cosa interessante di tutti questi racconti è che siamo passati dal parlare dell'io, che in realtà è un noi, quindi a parlare della collettività e della politica, e adesso Maria Galindo ci sta spiegando come tutta questa rivoluzione causa una rivoluzione di pensiero che va a mettere in discussione tutti i concetti, le idee, le etichette che abbiamo usato fino adesso. E c'è un altro testo che dice proprio questo, un altro che fa parte sempre del nostro amore di biblioteca condivisa, è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che mi è stato non regalato, ma è come se fosse stato regalato tramite le parole Gli occhi che brillavano di Anita, e ho detto: ma come ho fatto a non leggerlo ancora? E che è un testo che a me ha fatto fare totalmente una rivoluzione degli affetti e della relazionalità, mi ha fatto vedere me e le persone di cui mi circondo e le relazioni, le xenofore di cui faccio parte in modo totalmente diverso. E la protagonista Modesta del romanzo è anche lei una chimera, anche lei una xenofora che sempre mette in discussione chi è, chi sono le xenofore di cui fa parte, come si comportano, come possono imparare a comportarsi di nuovo diversamente in modo da riuscire sempre a stare insieme. Racconta tutta la sua vita e durante l'adolescenza Modesta, la protagonista, a una certa dice così: il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto assolute, nei significati snaturati che le parole continuano a rivestire. Mentiva la parola amore, esattamente come la parola morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco che cosa dovevo fare: studiare le parole esattamente come si studiano le piante, gli animali, e poi ripulirle dalla muffa, liberarle dalle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle nuove, e soprattutto scartare per non servirsi più di quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza, le più marce, come sublime, dovere, tradizione, abnegazione, umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà, sacrificio, rassegnazione. Beh, devo assolutamente fare una parentesi, che è: tu hai detto questo libro, in realtà non me l'ha regalato Anita, ma è come se me l'avesse regalato. La cosa super interessante del nostro rapporto, che però secondo me parla di che cos'è la xenofora, di che cos'è la chimera, è che per esempio io non mi ricordo mai quali libri io ti ho regalato. Cioè, non quelli che mi hai regalato tu me li ricordo bene, ma non mi ricordo quali io ti ho regalato, che comunque dovrei saperlo, essendo che appunto sono andata a comprarli, ci ho pensato, poi te li ho portati. E questa cosa secondo me è proprio la conferma del fatto che noi già esperiamo qualcosa e ci mancano a volte i concetti, le parole per stare in sintonia con quello che già viviamo. Cioè, questa è la xenofora, è il fatto che noi abbiamo una biblioteca condivisa che respira e vive di vita propria. questa era la parentesi, per tornare al passo che hai appena letto, che vabbè è un passo fenomenale, che tra l'altro mi piace molto anche perché poi tipo, non so, 200 pagine dopo, comunque molto tempo dopo, nella seconda parte del libro, c'è un passo in cui Goliarda fa lo stesso ragionamento rispetto a un'altra parola che a noi è molto cara, che è la parola rivoluzione, e dice anche la parola rivoluzione mente, anche la parola rivoluzione bisogna reinventarla. E questa roba qua a me mi tocca nel profondo perché per me è un po' quello che fa anche Butler nella sua rivoluzione che ci ha regalato e che ci regala. E per esempio questa cosa qua che fa Goliarda di mettere in discussione tutte le parole continuamente e anche la parola rivoluzione, dicendo anche la parola rivoluzione invecchia, anche la parola rivoluzione mente, che vuol dire stiamo attenti a non cascare nelle trappole identitarie. Questa cosa qua per me è la stessa cosa che fa a un livello magari molto più accademico, più trincerato dentro al fortino accademico che poi per esempio Maria Galindo critica anche giustamente, però appunto Butler pur dentro al fortino accademico fa delle cose incredibili, e per esempio per me una di queste cose più incredibili di tutte è un passo che c'è alla fine di Gender Trouble, quando Butler si sta confrontando a calci e pugni con Wittig, e a un certo punto... No, mi chiedevo chi è Wittig in due parole. Cosa... Wittig è una filosofa, scrittrice, femminista francese, almeno di una generazione più vecchia di Butler, esponente chiave del femminismo materialista francese. Ed è una filosofa, una scrittrice che è anche molto famosa per la sua frase provocatoria, le lesbiche non sono donne, che è sicuramente una frase che ha fatto storia, che ha aperto scenari di pensiero, e sicuramente non ci sarebbe Butler senza questa frase. Però a un certo punto Butler appunto negli anni 90 si accapiglia con Wittig nell'ultima parte di Gender Trouble, perché dice sì, è vero che le lesbiche non sono donne, ed è vero che la categoria di lesbica, con la sua sola esistenza, mette in crisi tutte le categorie, mette in crisi la categoria di donna, perché si esce dal sistema eterosessuale, eteronormato, in cui la donna fondamentalmente è il proletariato sessuale. Mette in crisi la categoria di eterosessualità, mette in crisi la categoria di desiderio, la categoria di natura, di corpo, ma quello che aggiunge Butler, appunto giustamente coi suoi tempi negli anni 90, è: ma se la categoria di lesbica fosse una categoria, cioè una definizione, un nome, una parola che mette in discussione tutte le categorie, quindi sesso, donna, uomo, desiderio, corpo, natura, ma anche la categoria stessa di lesbica? Cioè siamo in grado di far esplodere la categoria di lesbica? Siamo in grado di far esplodere anche le parole che sono a noi più care per non farle diventare quel, diciamo, recinto crostificato, identitario, che poi finisce per... creare alla fine un nuovo soggetto dai contorni chiusi e escludere qualcos'altro da questo Frankenstein politico di cui per esempio parlava Maria Galindo, che è quello che secondo Butler, secondo me, secondo tante femministe, transfemministe ci serve oggi. Anche perché appunto la categoria di lesbica, per esempio, pensandola come xenofora, si porta dietro tante altre categorie, nel senso, una non è mai solo lesbica, può essere lesbica giovane o vecchia, ricca o povera, migrante o non migrante. E qui torniamo. Si esplode di nuovo, tutte le categorie esplodono nel momento in cui vedi tutte le interconnessioni. Qui torniamo a Galindo, perché questa è proprio una cosa di Galindo che ci dice proprio, e ce lo dice da lesbica ovviamente, ci dice: io sono lesbica, ma io voglio anche essere una lesbica felice disoccupata, una lesbica malata, una lesbica che è anche tantissime altre cose oltre che lesbica, che è marchiata da mille identità e non finisce per essere nessuna di esse, ma per essere l'intreccio tra di esse. Mai lesbica, sempre xenofora lesbica, mettiamola così. E prima delle ultime parole di Galindo metterei anche l'ultima traccia, sempre scoperta nelle note di Femminismo Bastardo, in cui Galindo parla di un altro gruppo queer latinoamericano, Cumbia Queers, e c'è questa traccia del loro ultimo album che si chiama Nunca es tarde. Quindi forse l'idea è che Nunca es tarde per rivoluzionare tutto e pensarci xenofore. Forse di tradurre Nunca es tarde, che vuol dire non è mai troppo tardi, e sostanzialmente quello che ci racconta il testo è non è mai troppo tardi per cambiare cammino, per essere qualcosa di diverso. E direi che si sposa perfettamente con questa pagina meravigliosa di Maria Galindo dentro Femminismo Bastardo, con la quale vorremmo chiudere almeno questa parte di parole della trasmissione. Dice Galindo: voglio parlare di frocianza come capacità di disobbedire ai mandati che gravano sui nostri corpi. Voglio parlare di frocianza come della capacità sociale di smantellare ciò che viene inteso come uomo e ciò che viene inteso come donna. Voglio parlare di frocianza come quella forza sociale capace di stillare il dubbio e la domanda sotto le lenzuola e tra le pieghe della pelle. Ecco perché il nostro obiettivo... No, scusate, ho sbagliato. Ecco perché la nostra causa è una causa umana, che ha a che fare con il piacere e la libertà. Ecco perché il nostro obiettivo non è che ci accettino o ci rifiutino, ma che accettino i propri corpi e imparino nuovamente ad amarli e ad accarezzarli. Ecco perché la nostra causa trabocca dalle nostre mani per diventare una causa sociale e politica che emancipa non solo il nostro piacere, ma anche tutti i piaceri sessuali. Ecco perché la nostra causa trabocca dai nostri fianchi per diventare una causa sociale e politica che emancipa non solo le lesbiche e i froci, ma anche le donne dalla sottomissione femminile e gli uomini dalla schiavitù maschile. Scusate, ho sbagliato un po' di cose, ma mi emoziona troppo Maria Galindo. Bene, qua le nostre riflessioni sulle xenofore, su nuovi modi di pensarci, di pensare queste xenofore, sono finite, ma abbiamo una sorpresina finale. Ma vogliamo dire qualcosa su questa sorpresina? Sì, tu cosa vuoi dire? Io vorrei dire un sacco di cose. Allora, questa sorpresina è un'altra parte della nostra biblioteca, discoteca, xenoforoteca condivisa, chimeroteca condivisa, nel senso che è un mio pezzo del cuore che ho dedicato a tutti gli amori più grandi della mia vita. E a un certo punto è successo... Boh, prima dell'estate? Che eravamo qua... Eravamo qua, io ho fatto un'altra puntata, non mi ricordo quale, alla fine della quale siamo rimaste a cazzeggiare. E Ani, che tipo 3 giorni prima mi aveva detto: ah sì, io adoro cantare, però è una cosa che faccio solo per me, non canto mai davanti alle altre persone. 3 giorni dopo, alla fine della puntata, stiamo cazzeggiando, comunque c'erano una decina di persone in giro per Exalge, Ani si siede al pianoforte e inizia a suonare e a cantare. E io tipo, cosa? E niente, forse una delle cose che mi ha reso più fiero di quello che faccio, vedere che Ani fosse così tranquilla da potersi mettere a condividere, a xenoforare anche noi con la sua voce. E poi questa forse è successo con Hentai, perché è una canzone super xenofora, nel senso che Hentai è proprio il nome dei manga porno giapponesi, ed è una canzone che Rosalia, quindi cantante spagnola poi un po' americanizzata, è una canzone in cui lei canta questo desiderio proprio senza veli, cioè estremo, esplicito, su questa melodia, che invece è una melodia che sembra un po' quella di, non so, una ninna nanna della Disney. E quindi è una canzone, cioè, più innesto di così, più xenofora di così, più chimera di così si muore. E quindi è con questa... E c'è un'ultima cosa forse, c'è una terza xenofora in questo Hentai. E la terza xenofora forse è che appunto io mi sento una filosofa, ma per esempio mi piace cantare da quando ero bambina. E tra l'altro quando ero alle elementari, mi ricordo che un mio compagno di classe, che tra l'altro si chiamava Lorenzo, ricordo che proprio live adesso mi sta venendo fuori, mi chiese: ma tu cosa vuoi fare da grande? E io risposi: la cantante, presa così su 2 piedi, non sapevo cosa dire. Quindi insomma, dentro la mia xenofora c'è una filosofa, c'è una cantante, c'è un'amica di Lollo, ci sono tante cose, quindi mi piace anche prendere coraggio e portare qua tutte le parti della mia xenofora. Coraggiamoci, chimeriamoci e xenoforiamoci. Si sente? Siempre me pones saputa. So, so, so, so, so, so good, good, good. So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. Baby, te quiero. Thank you.